Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa mattina prefettura e questura avevano assicurato al Campidoglio che tutto era sotto controllo. Abbiamo visto cosa è successo poche ore dopo. Quasi la sensazione, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che quando qualcuno dice tutto sotto controllo, non ti preoccupare, c'è da preoccuparsi decisamente. Questa era la voce del sindaco di Roma, Marino, dopo quello che è successo, questa folle guerriglia a Roma a causa degli hooligans olandesi. Dice Marino che nella mattinata aveva chiesto, vi ricordate ieri sera, se ascoltavate Effetto Notte, proprio in chiusura di trasmissione avevo dato questo aggiornamento di qualcosa che stava succedendo in Campo dei Fiori a Roma con gli hooligans olandesi, erano ubriachi, uno diceva vabbè era sera, invece stamattina già lo erano e hanno devastato davvero il centro di Roma. E diceva Marino che stamattina appunto il prefetto, questo io ho detto che era tutto sotto controllo. Poi parleremo di questo, parleremo naturalmente, come sapete, sempre di tanti temi qui a Effetto Notte. Torneremo a occuparci della vicenda di cui vi ho parlato ieri, degli insulti su Facebook da parte di agenti penitenziari nei confronti di un detenuto che si è suicidato. Ci sono delle importanti novità, perché ci si chiedeva ieri se fossero effettivamente agenti o qualcuno che si mascherava dietro nomi o identità non proprie. Ne parleremo col capo del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Poi, ancora, visto che ci sono stati i funerali della povera Nicola, la neonata che è morta in Sicilia, anche su questo caso torneremo con la responsabile del 118 delle città dove si sono mosse insomma le richieste per accogliere la povera Nicole. Insomma, tantissime cose anche questa sera. Poi c'è l'Europa League che in parte c'entra con questa cosa degli hooligans. Voi non staccatevi per nessun motivo da Effetto Notte, anzi andate sulla pagina di Effetto Notte, potete aderire senza indugio, potete scrivere i vostri commenti sulle varie questioni di questa sera, naturalmente anche su quello che è successo a Roma. Ci si potrebbe chiedere effettivamente, ma nel caso di Olimpiadi o di chissà rocambolesche incursioni di ISIS, mettiamo così, Roma sarebbe in grado di controllare, di gestire la sicurezza? Per il momento andiamo avanti. Vi ricordo c'è anche il numero per i messaggi, è 349-238-6666. Vi riassumo la giornata. Guerriglia a Roma, scontri tra polizia e hooligans olandesi, caos in Piazza di Spagna con arresti, feriti, danneggiata la fontana della Barcaccia. Grecia, il governo Tsipras chiede la proroga degli aiuti, la Germania si oppone ma il governo tedesco si spacca. L'economia italiana, l'OCSE stima un PIL in crescita di almeno lo 0,4%, il segretario generale Gurria loda le riforme ambiziose italiane. Politica, alta tensione in Forza Italia, rivolta in Puglia contro l'atteggiamento di Berlusconi nei confronti del dissidente Fitto. Il caso della piccola Nicole, oggi a Catania ci sono stati i funerali, stasera a Effetto Notte, vi dicevo, la coordinatrice del 118 di Catania, Ragusa e Siracusa. E poi gli insulti al detenuto suicida, il ministro della giustizia Orlando parla di atti intollerabili. Il capo del DAP dovrebbe essere questa sera a Effetto Notte e ha firmato 16 provvedimenti di sospensione. Per il calcio, giornata e serata di Europa League, 5 squadre italiane in campo per i 16esimi di finale. E partiamo quindi dalla folle guerriglia messa in scena dai tifosi olandesi a Roma, con una Piazza di Spagna assediata, con scontri, cariche, danni, arresti, feriti, verifiche sulla Barcaccia, la fontana del Bernini danneggiata. E Marino, avete sentito che dice i vertici avevano assicurato che era tutto sotto controllo. Ne parliamo con Francesco De Remigis, lì in diretta da Roma. Francesco, questa giornata pazzesca, davvero. Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Sì, doveva essere tutto sotto controllo, poi è andata così che nel primo pomeriggio, in piena diciamo giornata turistica di Piazza di Spagna, qualche centinaio di tifosi del Feyenoord hanno cominciato a vandalizzare letteralmente la piazza con lanci di bottiglie contro le vetrine dei negozi. In un secondo momento il lancio di fumogeni sugli agenti di polizia, che nel frattempo erano intervenuti in modo abbastanza veloce, immediato, con diverse camionette in tenuta antisommossa. Contro di loro sono state lanciate delle bombe carta ed è scoppiato a quel punto davvero il panico in Piazza di Spagna, e da delle prime tensioni si è arrivati davvero a 10 minuti di guerriglia urbana, in cui i turisti si sono dovuti rifugiare sulla scalinata di Trinità dei Monti finché la polizia non è riuscita a disperdere gli hooligans. Ma non è finita qui, perché poi questa dispersione ha portato i tifosi olandesi in quello che era il loro punto di ritrovo, a Villa Borghese, da dove partivano le navette dirette allo stadio. Anche lì ci sono stati dei piccoli incidenti, perché il tasso alcolico denunciato dalla polizia, che aveva anche messo in allerta la popolazione chiedendo di non entrare a Villa Borghese durante il tardo pomeriggio perché c'erano queste navette in partenza, fatto sì che gli scontri e i piccoli incidenti si siano prolungati anche durante la salita sulle navette da parte dei tifosi, che poi finalmente sono riusciti ad arrivare allo stadio. Il bilancio si è aggravato nel corso della giornata, il bilancio degli scontri è salito a 10, il numero degli agenti feriti lievemente, 3 i tifosi olandesi, anch'essi coinvolti negli scontri, sono rimasti feriti, almeno una decina i fermati. Ricordiamo il danno principale al monumento, alla fontana del Bernini, cosiddetta barcaccia in Piazza di Spagna, di cui ancora non è stato ben definito l'entità effettiva di questo danno. Francesco, poi so che tu vai verso lo stadio o sei già da quelle parti? Io sono già qui davanti, sta in questo momento concludendosi l'uscita degli spettatori dal parte romanista, del settore romanista. Sono stati ovviamente divisi 2 settori, i tifosi olandesi sono ancora in attesa che tutte le persone di fede romana lasciano lo stadio e poi saranno anche loro in un'altra direzione ad uscire. Al momento qui la situazione è piuttosto tranquilla, ma i tifosi sono ancora nello stadio, in gran parte quelli olandesi, e la polizia teme anche degli scontri più avanti quando poi raggiungeranno il resto della città. Speriamo di no, perché anche fin qui è troppo, però nel caso ci aggiorniamo dopo. Francesco De Remigis, speriamo, grazie davvero intanto. Grazie a voi. Ciao Francesco. E immediate sono state, tutto questo caos, questo gravissimo episodio, le reazioni politiche e anche internazionali. Roma devastata e ferita, non finisce qui. Questo è il tweet del primo cittadino della capitale, Ignazio Marino, subito dopo le devastazioni causate nel pomeriggio dai tifosi del Feyenoord in Piazza di Spagna ieri in Campo dei Fiori. Conferma il sindaco di Roma i danni al monumento della barcaccia appena restaurato, che non devono, scrive Marino, essere pagati dai romani. Il sindaco poi sottolinea di aver protestato e chiesto spiegazioni a chi è la responsabilità dell'ordine pubblico dopo le critiche piovute da più parti al lavoro del prefetto. Invocano punizioni esemplari il governatore del Lazio Zingaretti e il ministro della cultura Franceschini, mentre Stefano Pedica del PD chiede la sospensione della partita. Polemiche anche da parte degli esercenti per l'ordinanza emessa d'urgenza sul divieto di somministrazione e vendita di alcolici nel centro storico e nella zona stadio. Si vieta di servire un bicchiere di vino nei ristoranti, ma non si impedisce ai venditori abusivi di offrire birra intorno agli assembramenti dei tifosi, ha denunciato il presidente Fiepet Confesercenti. Mezz'ora fa il commento da parte dell'Olanda: per fortuna i danni alla barcaccia sono lievi, ma resta la vergogna, ha fatto sapere il portavoce dell'ambasciata olandese Art Ehring, esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine. A condannare gli incidenti anche l'Unione Europea. Non c'è spazio per la violenza nello sport, né dentro né fuori lo stadio, ha twittato il commissario europeo allo sport, l'ungherese Tibor Navracsics. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora passiamo a parlare della Grecia, con un'apparente situazione di confusione oggi sulla richiesta greca di proroga degli aiuti europei. Una richiesta che è arrivata a Bruxelles, ma il governo tedesco si è messo di traverso. Nel pomeriggio ci sono stati dei contatti tra il primo ministro greco Tsipras e il presidente del Consiglio Renzi, e poi cercheremo di capire tra poco che esito ha avuto per il momento, insomma, in questa giornata la vicenda. E ancora all'estero rimaniamo con la crisi libica. Dopo che le Nazioni Unite hanno deciso di privilegiare la soluzione politica, da Washington Obama promette: batteremo l'ISIS. Sul fronte dell'immigrazione l'Unione Europea scende in campo e rafforza l'assistenza all'Italia. Dal Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Libia al vertice di Washington contro il terrorismo, tutto il mondo si mobilita nella lotta contro le violenze dell'ISIS. Bisogna restare uniti nel combattere la piaga del terrore, è l'appello lanciato dal presidente Barack Obama davanti ai leader di 60 paesi. The notion that the West... Dire che l'Occidente sia in guerra con l'Islam è una menzogna. L'ISIS non rappresenta l'Islam, anche se recluta i suoi combattenti tra i musulmani, ha detto Obama. E combattenti avanzano sulla costa libica sirte contesa tra jihadisti e soldati del governo. La paura dell'Europa è che i miliziani possano infiltrarsi tra le centinaia di profughi diretti nel nostro paese. E da Bruxelles arriva un messaggio molto chiaro, con parole ripetute in italiano. L'Italia non è sola. L'Europa è al fianco dell'Italia. Così ha concluso il suo discorso il commissario europeo Avramopoulos, spiegando che l'Unione Europea è pronta ad aumentare le risorse per Triton, l'operazione di controllo delle frontiere, stanziati subito 13,7 milioni di euro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana. Oggi è stata la giornata di forte tensione dentro Forza Italia, perché Raffaele Fitto, il dissidente numero uno, ha commentato la confusione regna sovrana nel partito, ed è stato praticamente un avvertimento lanciato a Silvio Berlusconi dopo che Berlusconi ha commissariato il partito in Puglia, lo ha affidato al berlusconiano ex parlamentare Luigi Vitali. Come conseguenza tutti i coordinatori provinciali in Puglia si sono dimessi, stessa iniziativa hanno assunto anche il coordinatore regionale vicario Antonio Di Staso, i vice Roberto Marti e Riccardo Memeo, tutti fittiani. Per quanto riguarda l'economia, dati in chiaroscuro sul nostro paese nei rapporti OCSE e Istat che sono stati resi note oggi. L'organizzazione internazionale, l'OCSE, promuove le riforme, il Jobs Act, e prevede una crescita del PIL in Italia, mentre l'Istat rileva che in Italia lavorano meno di 6 persone su 10, la disoccupazione giovanile è record e che ci sono 2 milioni e mezzo di giovani che non studiano e non lavorano, e ce ne occuperemo tra poco di questo aspetto. Per la cronaca parleremo dopo, dovremo raggiungere, come dicevo, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per le importanti novità sul caso degli agenti di polizia che hanno festeggiato online dopo il suicidio di un detenuto. Si torna a parlare di evasione fiscale e ancora c'è un personaggio noto della musica alle prese con i guai con il fisco. Questa volta tocca a Gino Paoli. L'accusa sarebbe quella di evasione fiscale. L'indagine è partita dalla Procura di Genova. Secondo gli inquirenti, Gino Paoli avrebbe sottratto al fisco ingenti somme di denaro trasferendole all'estero. Gli accertamenti riguarderebbero 2 milioni di euro risalenti al 2008 e tenuti nascosti al fisco nella dichiarazione del 2009. L'inchiesta sarebbe nata con un'intercettazione ambientale avvenuta nello studio del commercialista genovese Andrea Vallebuona, già arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla Banca Carige. I due fatti però non sarebbero collegati. I legali di Vallebuona chiariscono che l'assistito non ha ricevuto avvisi di garanzia né subito perquisizioni e che aveva avuto solo un breve rapporto professionale con Gino Paoli. Sarebbe invece indagata la moglie di Paoli, Paola Penso, e due soci del cantautore. Intanto del caso si occupa anche la politica. Il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera chiede a Paoli di valutare le dimissioni dalla carica di presidente della SIAE. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il consigliere di amministrazione della RAI Antonio Verro è finito nell'occhio del ciclone. Una lettera inviata dal consigliere Silvio Berlusconi nel 2010, quando Berlusconi era presidente del Consiglio, parla Verro di 8 programmi antigovernativi che andrebbero boicottati e sollecita la nomina di un direttore di rete più compiacente. Enza Loddo ha intervistato Lorenza Bonaccorsi della Commissione Vigilanza RAI. Quella lettera è un po' lo specchio di quello che non deve essere, che non deve succedere. La questione è abbastanza delicata e antica sul legame diretto tra politica e servizio pubblico. Il fatto che il Presidente del Consiglio abbia detto che a breve, nel mese di marzo, verrà affrontato il tema RAI con un progetto di riforma, ovviamente nell'ottica di questo grande progetto di riforma che sta prendendo altri temi, sia fondamentale, perché questo legame diretto tra politica e servizio pubblico va tagliato. È una cosa molto seria, va fatto un ragionamento ampio. La RAI deve davvero riacquisire il ruolo di vero motore culturale dell'Italia. Dobbiamo fare una grossa operazione culturale di contenuti, ovviamente che passa da un efficientamento, una razionalizzazione dei costi, ma appunto un progetto culturale ampio. Credo che il nostro compito sia quello di progettare un servizio pubblico per il futuro che però abbia un respiro almeno decennale, ventennale, cioè che vada oltre. Insomma, lascerei stare questo capitolo abbastanza triste. E poi per chiudere andiamo sull'Europa League. La partita a Roma dovrebbe essere ormai conclusa, ci sono altre squadre in campo, ma ne parliamo con Giovanni Capuano. Giovanni. Eccomi, ciao. Sì, ciao, è conclusa Giovanni. Roma, ed è conclusa anche per le altre due italiane che hanno giocato le 19. E allora parto da lì e ti do i risultati. Sì. Roma Feyenoord 1-1, perché alla Roma non è andata bene nemmeno sul campo, dopo tutto il caos che abbiamo raccontato per tutta la giornata. Gervinho, poi il pareggio di Kasim Richards. È andata a malino anche al Toro, che ha pareggiato 2-2 con l'Athletic Bilbao e giocava in casa. Inaki Williams, doppietta di Maxi Lopez, e poi nel finale Gurpeghi. È andata benissimo al Napoli, che ha già ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale, ha vinto 4-0 in Turchia contro il Trabzonspor, Enrique Higuain, Gabbiadini e Zapata. In campo adesso ci sono invece Inter e Fiorentina, e allora ti racconto che sta andando molto bene all'Inter, che vince 1-0 a Glasgow contro il Celtic, ha segnato al quarto minuto Shaqiri, un gol tra l'altro anche molto bello, e invece sta andando malino alla Fiorentina, che è sotto a Londra 1-0 contro il Tottenham, gol di Soldato al quinto minuto, e questo insieme alla sfida del Torino è certamente l'accoppiamento più difficile per l'italiano in questo sedicesimo finale di finale, e quindi insomma non è iniziato benissimo per la Fiorentina. Grazie Giovanni Capuano, vedremo come prosegue dopo per la Fiorentina e per l'altra squadra. Vedo molti vostri messaggi, ne leggo qualcuno, poi magari diamo più spazio dopo tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi SMS al 349-238-6666. Ringrazio Roberto Meli per il suo messaggio. Poi Daniele da Calolzio Corte vicino Lecco dice: Roma, gravi danni dei tifosi hooligans alla statua della Barcaccia. Noi italiani con le barcacce proprio non ce la caviamo, sarà per quello che continuiamo ad andare a fondo. Insomma, un po' di metafore, un po' di ironie da parte di Daniele. Ascoli, William da Ascoli Piceno: cara Roberta, dovrebbero bloccare gli aerei che riportano quei teppisti in Olanda, li identificano uno a uno denunciando i colpevoli, non sarebbe una cattiva idea, anche molti in realtà sono venuti in macchina, sembra. Poi Roberto da Ferrara, a proposito invece degli agenti che hanno insultato il detenuto che si è suicidato: ci vuole la destituzione, dice, per chi disonora la divisa, come dice la legge, anche nei casi Aldovrandi, Cucchi, Uva e simili. Poi ancora Tina: se fosse accaduto in Olanda, gli italiani anziché allo stadio sarebbero tutti in galera. Allora continuiamo dopo, anche con i vostri messaggi, i vostri commenti, sia sulla pagina di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Poi parleremo di molti altri temi e intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme. Sergio da Milano scrive al 349-238-6666: da milanese sono solidale con la cittadinanza romana, è uno sfregio per tutta l'Italia, non riusciamo a far fronte a nessuna carica, quando arrivano in Italia fanno tutto quello che vogliono, ha ragione Salvini, Alfano e il prefetto devono dimettersi, chi paga i danni? Hanno il coraggio di chiedere il conto all'Olanda? Il sindaco Marino ha detto: chi rompe paga, e l'ha detto all'Olanda, e sembra che effettivamente l'ambasciata olandese abbia assicurato che i colpevoli saranno puniti e che pagheranno i danni, così è sembrato, per il momento. Intanto vi riepilogo le notizie più importanti. La Grecia chiede prestiti per altri 6 mesi all'Unione Europea, c'è un no di Berlino, Bruxelles invece apre, però la Germania è divisa su questa posizione. Gli hooligans olandesi devastano Roma, come avete sentito, l'ISIS che crea un nuovo hashtag su Twitter, arriviamo a Roma, anche loro si vede con la comunicazione, insomma... si divertono, diciamo così. Poi l'Ox che promuove le riforme di Renzi, in particolare il Jobs Act per un cambiamento, dice l'Ox, però l'Istat parla di livelli di disoccupazione e anche di povertà in Italia piuttosto alti. Alta la tensione in Forza Italia, rivolta in Puglia contro Berlusconi che ha commissariato la Forza Italia pugliese. Gino Paoli nei guai per 2 milioni portati in Svizzera. A Catania c'è stato l'addio alla piccola Nicole, ci sono stati i funerali, dopo ne parleremo. E a Milano cancellate le nozze gay. Pisapia, il sindaco va all'attacco dell'iniziativa del prefetto. Oh, sapete che più o meno ogni sera, naturalmente, finché non si arriva a una conclusione, una soluzione, si parla di Grecia ogni giorno. In realtà il governo di Tsipras ha inviato al presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem una lettera, un testo nel quale la Grecia chiede una proroga dei finanziamenti e degli aiuti europei ancora per altri mesi. Il portavoce del presidente della Commissione europea parla apertamente di un segno positivo. Poi invece Berlino, la Germania, si è messa di traverso col portavoce di Schäuble, il ministro delle finanze, che ha gelato un po' gli entusiasmi, ha detto: la lettera di Atene non presenta alcuna proposta di soluzione sostanziale. La richiesta è respinta dal governo tedesco. Ma succede che il vice cancelliere tedesco Gabriel non è d'accordo con Schäuble e replica: la proposta scritta dal governo greco per le trattative sul proseguo del programma di riforme è un primo passo nella direzione giusta. Insomma, un po' di confusione, ma ci chiarirà forse le idee Moria Longo del Sole 24 Ore. Ciao Moria. Ciao, buonasera a tutti. Quindi al momento... qual è la situazione? È riuscita la Grecia anche un po' a spaccare il governo tedesco? Ma il governo tedesco in realtà è sempre stato diviso tra Schäuble, che è il ministro delle finanze, che è sempre stato il più duro, il più falco. Esattamente. La stessa Merkel è sempre stata un po' più morbida, sempre mediato. Diciamo che la Germania ha sempre fatto un po' il doppio gioco, in un certo senso. Manda avanti da un lato le dichiarazioni dei falchi, che sono Schäuble o il presidente della banca centrale tedesca, la Bundesbank, che è sempre molto duro, e la Merkel tendenzialmente cerca sempre un po' più di mediare. Quindi fa parte anche questo del gioco politico, la politica c'è ovunque, anche in Germania. Il problema è che qua la vicenda è molto seria, perché la Grecia ha fatto un piccolo passo indietro, un un passo, diciamo, verso l'Unione Europea, ha detto che rispetterà l'equilibrio finanziario del bilancio pubblico, chiede ulteriori 6 mesi di tempo di finanziamenti per preparare un pacchetto di riforme, però chiede che certe imposizioni fatte dalla, volute dalla Troica proprio in, durante la, quando sono stati concessi i finanziamenti, bene, chiede che queste imposizioni vengano in, certi, in un certo caso ammorbidite. Per esempio l'imposizione che prevede che la Grecia debba avere un surplus di bilancio prima di pagare gli interessi del 4,5% nel 2016. Questa è una cosa molto forte, significa che la Grecia deve tenere alte le tasse e basse le spese per avere appunto un surplus, cioè un utile di bilancio pubblico. Tsipras chiede di ridurre un po' questo obiettivo di utile in modo da liberare risorse nel bilancio pubblico statale per poter cercare di rilanciare l'economia, perché la Grecia dopo tanti anni di austerità e dopo tanti anni di recessione ha bisogno, come abbiamo bisogno noi italiani, di rilanciare l'economia, quindi di avere un po' di mano, avere la mano un po' più libera sul bilancio pubblico per poter aiutare l'economia a ripartire. Questo chiede Tsipras. Chiede Tsipras, è fattibile questa cosa? Secondo me sì, se i tedeschi non si mettessero così di traverso sì, perché le richieste della Grecia non sono così campate per aria. La Grecia chiede di ridurre un po' l'obiettivo di surplus di bilancio, pur mantenendo il bilancio in surplus, quindi in avanzo, quindi non chiedono di andare in deficit, chiedono semplicemente di ridurre l'obiettivo, e poi chiedono di rinegoziare il debito pubblico, che ricordo che la Grecia il debito pubblico non ce l'ha con il mercato, ma ce l'ha con gli altri stati europei. La stessa Italia ha prestato alla Grecia 40 miliardi di euro sotto varie forme. Ebbene, la Grecia chiede di rinegoziare questo debito non per non pagarlo, la Grecia vuole pagare il debito, però chiedono semplicemente di parametrare i tassi di interesse all'andamento della crescita economica greca, cioè se la Grecia ha un anno in crescita economica, quindi con un PIL in rialzo, la Grecia paga gli interessi, se il PIL non è in rialzo e in recessione non li paga. In questo modo vogliono in un certo senso parametrare, legare il pagamento degli interessi all'andamento dell'economia, del PIL, che è una cosa che è stata fatta in molti stati in crisi, dall'Argentina, molti stati che hanno avuto crisi hanno fatto questa cosa, che è un modo intelligente di pagare comunque gli interessi senza affossare l'economia di uno stato quando l'economia è in difficoltà. Quindi gli interessi si pagano quando l'economia va bene e non si pagano quando l'economia va male, è un modo per aiutare l'economia di un paese in difficoltà e permettergli poi di onorare il debito, perché in realtà se si tira troppo la corda, si strozzano troppo i greci, a un certo punto rischiamo veramente che i debiti non li ripagano veramente, quindi tirare troppo la corda rischia di diventare controproducente per gli stessi stati europei che hanno prestato soldi alla Grecia. L'ultimatum sarebbe stato domani, quello dato dall'Unione Europea alla Grecia, no? Però a questo punto probabilmente... andiamo avanti a ultimatum tutti i giorni. Sì, è il gioco delle parti, un po' come dici. Sì, in realtà l'ultimatum finale dovrebbe essere il 28 febbraio, quando scade definitivamente il programma di aiuti verso la Grecia, ma già c'è chi guarda entro giugno e si dice comunque abbiamo ancora tempo, c'è la speranza di tutte che il tempo non finisca mai, ci sia sempre tempo per trovare una soluzione. La realtà è che la Grecia deve trovare una soluzione velocemente, l'Europa e la Grecia devono trovare una soluzione velocemente, perché altrimenti il sistema bancario rischia di collassare. Adesso il sistema bancario vive soltanto grazie alla flebo che gli dà la Banca Centrale Europea. Se la Banca Centrale Europea a un certo punto decidesse di chiudere questa flebo, la Grecia avrebbe un default, un'insolvenza del sistema bancario, e quindi a quel punto rischierebbe veramente di dover uscire dall'euro. Quindi è interesse di tutti affinché un accordo venga trovato. Il problema è che qua entrambe le parti non vogliono indietreggiare, o meglio la Grecia è un po' indietreggiata, è venuta incontro alle richieste europee, sembra proprio che invece la Germania non abbia intenzione di fare un passo indietro. Moria, facciamo anche un breve accenno a noi, perché l'OCSE ha lodato le riforme italiane, ha detto che c'è una stima di crescita, anche se piccola, per quanto riguarda il prodotto interno lordo nel 2015 per l'Italia. Sì, assolutamente, l'OCSE stima che quest'anno, tra l'altro è una stima che fanno in tanti economisti, quest'anno il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,4%, che in realtà non è che sia un gran successo, però rispetto dopo 3 anni e mezzo di recessione segnala è già qualcosa, un'inversione di tendenza. Tra l'altro prevede per l'anno prossimo una crescita ulteriore, quindi un 1,3%, quindi diciamo che le prospettive sono incoraggianti. In realtà buona parte di questa scarsa crescita economica, non secondo l'OCSE ma secondo tutti gli economisti, è dovuta a tre fattori che sono esterni all'Italia, cioè l'euro che si è indebolito, il petrolio che è sceso molto e la Banca Centrale Europea che a marzo inizierà a stampare denaro e a comprare titoli di Stato. Quindi questi tre aiuti esterni stanno dando una mano forte. Tempo fa stimavo con un economista che soltanto questi tre fattori esogeni dovrebbero dare all'Italia uno 0,8% di PIL in più rispetto a quello che l'Italia avrebbe fatto senza questi tre aiuti. L'OCSE però sottolinea, ed è una cosa che sottolineano tanti economisti, che le riforme che sta varando il governo Renzi, soprattutto parla del Jobs Act, possono avere un effetto positivo. Loro stimano che se le riforme saranno varate, non solo quelle già in cantiere, ma l'OCSE ne indica molte altre, se tutte le riforme fossero varate, l'Italia nei prossimi 10 anni avrebbe un 6% di crescita del PIL in più grazie alle riforme. Quindi pone molto l'accento sulle riforme, elogia il Jobs Act, ma chiede anche di più. Vedremo allora tra fattori esogeni, quindi tu endogeni, come procederà l'Italia almeno per quest'anno, nei prossimi mesi. Grazie Mario Longo intanto. Grazie a te, buonasera a tutti. Ciao Mario. Adesso, come vi dicevo, torniamo sulla vicenda di cui vi parlavo ieri. Nel carcere di Opera vicino Milano si è suicidato un detenuto romeno di 39 anni condannato all'ergastolo per un omicidio, e a portare la vicenda alla ribalta delle cronache è stato soprattutto il fatto che un sindacato della polizia penitenziaria, l'Alsippe, ha pubblicato su Facebook, come si fa, si pubblica un link, un collegamento con questa notizia, e di lì sono partite una serie di commenti che hanno creato una certa indignazione generale. Qualcuno che ha scritto ottimo, speriamo che abbia sofferto, qualcun altro meno male uno in meno, un altro che dice consiglio di mettere a disposizione più corde, più sapone evidentemente per suicidarsi, lui è morto ma scommettiamo che il giudice metterà sotto inchiesta chi era di servizio, ricordatevi che loro sono cattivi nei nostri confronti, e così via. Insomma, ne sono arrivati molti, ne vedo uno anche qui da Silvano da Bergamo che dice meno male che Romeno si è suicidato in carcere così risparmiamo soldi, e così via. Diciamo, qualcuno ha questo tipo di sentimento, di sensazione quando succedono queste cose. Il ministro della giustizia Orlando ha avuto oggi un incontro con il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Santi Consolo e anche con diverse sigle sindacali, e Santi Consolo è in collegamento. Dottor Consolo, buonasera. Buonasera. Quindi cosa si è arrivati oggi? Dopo, intanto, durante questo incontro col ministro Orlando, che cosa vi siete detti? Col ministro Orlando abbiamo avuto un'intesa fin dai primi momenti nei quali abbiamo appreso di questa triste vicenda, che sicuramente ci ha molto addolorato, perché l'immagine della polizia penitenziaria in questi ultimi anni è un'immagine di servizio nei confronti del paese, ma è soprattutto un'immagine di persone che si sacrificano e che sono votate alla vicinanza umana verso chi soffre, prevenendo soprattutto moltissimi tentativi di suicidi che si verificano in carcere. Questo abbiamo lavorato, io di questo ne sono grato al signor ministro, abbiamo lavorato in assoluta sintonia e io da subito ho preso delle iniziative che... Ecco, prima delle sue iniziative, mi perdoni Consolo, sentiamo, abbiamo un passaggio di quello che ha detto il ministro Orlando poi in conferenza stampa. Sì, sì, sì. Sentiamolo. Credo si sia dato un segnale chiaro, soprattutto appunto in grado di stigmatizzare questo tipo di atteggiamento che viola uno dei doveri fondamentali di chi compone il corpo di polizia penitenziaria, ma che rischia anche di mettere in risalto opinioni che non corrispondono al sentire comune di questo corpo, che vorrei ricordarlo è impegnato quotidianamente per sventare i suicidi all'interno del carcere e non per applaudire quando questi avvengono. come diceva lei, insomma, dottor Consolo. Senta, però la cosa importante di oggi è che si è capito con gli accertamenti che effettivamente si è trattato di agenti penitenziari. Questi commenti arrivano da loro, perché ieri c'era il dubbio che fosse stato magari qualcun altro senza un'identità precisa. E vi sono stati anche degli agenti penitenziari, e quindi ecco, quello che a me preme evidenziare è questo. Intanto, in esito poi all'incontro con i sindacati, al quale dovevo essere presente pure io, ma contestualmente ero stato convocato alla commissione antimafia e audito dalla stessa, quindi non ho potuto partecipare all'incontro con i sindacati. Però da quello che ho preso, i sindacati più rappresentativi, so che correttamente e giustamente hanno preso le distanze da questi comportamenti, quindi sono consapevoli che tutto queste dichiarazioni sicuramente non giovano alla buona immagine della polizia penitenziaria. Lei ha preso dei provvedimenti, dottor Consolo? Sì, i provvedimenti che ho preso sono i seguenti. Intanto ho interessato il nucleo centrale, il NIC, affinché svolgesse indagini serie ed approfondite, quindi l'individuazione di coloro che hanno fatto queste dichiarazioni è avvenuta proprio attraverso l'opera collaborativa di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. E in esito al rapporto ricevuto, lo stesso è stato inoltrato all'autorità giudiziaria competente per le valutazioni di competenza. Poi ancora, di concerto con il direttore generale del personale, sono stati avviati i procedimenti disciplinari nei confronti degli autori di queste dichiarazioni, e personalmente ho emesso provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio in attesa che si definiscono i procedimenti disciplinari. Quindi ancora ho mandato una missiva alle articolazioni preposte alla formazione della polizia penitenziaria affinché si incentivino quei corsi che abbiamo avviato da tempo di formazione professionale, sensibilizzando il personale su queste tematiche, cioè rispetto della persona umana e della dignità, soprattutto nei confronti di coloro che sono ristretti nei nostri siti. Questo è importante. Poi ho fatto pure una circolare, se vuole poi di questa ne parliamo, perché questa credo che sia di particolare rilievo. E mi dica allora, visto che l'annuncia, che cosa c'è in questa circolare? Dunque, è stata messa una circolare in cui si precisa l'uso dei social network da parte del personale dell'amministrazione in genere, quindi non soltanto della polizia penitenziaria. Si chiarisce che quando si usa il network, spesso la platea dei destinatari diventa indeterminabile, anche perché il tutto può essere ripreso anche da organi di stampa a livello nazionale. Poi si chiarisce che non si vuole con questa circolare incidere sul diritto di manifestazione del pensiero e di critica, ma che in costanza di un rapporto di lavoro sicuramente e anche la polizia penitenziaria ha particolari doveri. Mi riferisco al dovere di fedeltà, ma soprattutto a quello di adesione ai valori e alla missione istituzionale che tanti poliziotti penitenziari svolgono con particolare entusiasmo e dedizione. Chiarissimo il suo messaggio, dottor Consolo. Mi dica solo una cosa. Quello che volevo dire, quindi ci vuole continenza verbale, quindi correttezza espressiva, continenza sostanziale, e bisogna essere consapevole della rilevanza sociale delle dichiarazioni. Dottor Consolo, le posso chiedere, però abbiamo proprio 20 secondi, ma c'è il rischio di licenziamento per questi agenti sospesi? 20 secondi abbiamo. Guardi, questo ho già risposto in conferenza stampa assieme al Ministro. Siccome l'organismo che dovrà valutare le eventuali irrogazioni di sanzioni disciplinari è diverso dalla mia persona, io ho rispetto per quanti dovranno decidere. Benissimo. Quello che vorrei aggiungere è che il personale della Polizia Penitenziaria, anche fuori dal servizio, deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni. Giustamente. Dottor Santiconsolo, io la ringrazio, allora le auguro buon lavoro, che avrà diverse gatte da pelare, diciamo, nei prossimi giorni. Già questa insomma è una cosa importante. No, va bene, ma io sono affezionato a questa amministrazione, mi sento parte del corpo della Polizia Penitenziaria e vorrei poter fare un cammino assieme a tutti gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, che è quello di una solidarietà umana verso chi soffre, quindi con un ruolo nobile per tutti gli appartenenti che al corpo. La missione è opportuna. Grazie Santiconsolo, grazie, buona giornata, buona continuazione. Grazie. Adesso ci dobbiamo proprio fermare, una pausa, siamo andati un pochino più in là e ritorniamo insomma dopo questa pausa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e sulla guerriglia provocata dagli hooligans olandesi a Roma. Renzi, ci sono alcune sue dichiarazioni, dice: attendo le scuse del Feyenoord, si tratta di barbarie, e ancora dice: puniremo con molta severità e durezza gli hooligans. E poi i vostri messaggi potete continuare a mandare alla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Dice Luisa: fa una cronaca, oggi ero a Piazza di Spagna dall'estetista, non ti dico che bordello, il top è stato un tipo che sotto il naso dei poliziotti si è messo ad aprire una cassa di peroni, poi hanno danneggiato di nuovo la fontana appena restaurata, danneggiata peraltro anni fa da un turista, e noi li scortiamo allo stadio, ma che buffoni siamo, dice Luisa, a partire dallo scaricabarile di Marino. Renzo da Imperia: l'annullamento della partita sarebbe stato più efficace di qualunque altro provvedimento, è un'idea che spesso ricorre, e poi dicono sarebbe anche peggio, poi si scatenerebbe la rabbia, insomma non si sa com'è, veramente incredibile che non si riesca a gestire queste situazioni. Ma ci ricolleghiamo a Roma con Francesco De Remigis per capire se ci sono delle novità, come è andata la situazione, l'evacuazione dello stadio anche, Francesco. Per il momento tutto tranquillo, i tifosi romanisti hanno quasi completamente lasciato lo stadio. C'è un'altra piccola polemica, come diceva l'ascoltatrice giustamente, noi li accompagniamo allo stadio, e mentre ci sono centinaia di persone in attesa ancora degli autobus, è una caratteristica tipica di questa città, l'attesa alle fermate, però in una giornata così le persone che erano rimaste tranquille fino a questo momento cominciano anche a denunciare un po' di rabbia da questo punto di vista. E tornando a Piazza di Spagna, diceva l'ascoltatrice, hanno aperto una cassa di peroni, fosse stata una cassa di peroni, questo pomeriggio Piazza di Spagna appariva come una discarica a cielo aperto, con migliaia di bottiglie di birra rosse o intatte, soprattutto c'era un odore insostenibile di birra che è persistito, è rimasto fino a questa sera nonostante l'operazione dei turbini di pulizia. Che tra l'altro, quindi, scusa Francesco, non dovrebbe esserci il divieto di vendita di alcolici? Esatto, questa è stata un'altra polemica invece da parte degli esercenti, perché il prefetto aveva deciso il divieto di vendita di alcolici, di bevande alcoliche, fino alla mezzanotte di oggi in ben 3 municipi della città, quindi un centro allargato, compreso Trastevere. Per chi ha un locale, ha magari una serata in programma, è stato un mancato incasso importante, che però non ha prodotto alcun risultato, perché in Piazza di Spagna, ma anche intorno al quartiere, il pieno centro della capitale, bastava entrare in un supermercato per acquistare appunto una cassa di birra, e evidentemente hanno fatto incetta i tifosi del Feyenoord, perché oggi ce n'erano davvero tante a Piazza di Spagna. Sentiamo un passaggio anche del sindaco Marino, arrabbiatissimo, e poi si capirà di chi sono le responsabilità, se si capirà. È evidente che ci sono delle responsabilità, perché basta guardare gli uomini e le donne della polizia, che evidentemente fanno il loro lavoro ma ricevono degli ordini, che erano sulla scalinata di Piazza di Spagna, e in quello stesso momento c'erano questi barbari, questi violenti, che assalivano la nostra fontana, tra l'altro appena restaurata con una donazione privata. Credo che questo davvero non possa essere tollerato nella nostra città. Sono le accuse piuttosto pesanti, Francesco De Remigis. È vero, in parte io ero lì, diciamo che la polizia ha atteso, non è intervenuta in modo immediato, ha atteso finché non sono arrivati i lacrimogeni direttamente contro di loro e poi anche contro la stessa fontana, ma qualche minuto forse è stato perso, io ero lì e posso testimoniarlo. Grazie Francesco De Remigis intanto. A voi. Ciao, salutaci la povera Roma in questo momento. Ci sono gli aggiornamenti, sì, per chi viaggia, poi magari ancora spazio ai vostri messaggi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E queste sono le notizie principali, se le avete perse in altri passaggi qui di Effetto Notte, a partire dalla richiesta della Grecia di prorogare per altri 6 mesi gli aiuti europei, con Bruxelles che apre qualche spiraglio, Berlino, il governo tedesco che si spacca in due tra favorevoli e contrari, gli hooligans olandesi che devastano Roma, ne abbiamo appena riparlato, l'ISIS che crea un nuovo hashtag su Twitter, arriviamo a Roma, e poi l'Ocse che promuove le riforme di Renzi e il Jobs Act in particolare per un cambiamento, e l'Istat che dice che però in Italia ci sono 10 milioni di poveri. Alta tensione in Forza Italia con la rivolta in Puglia contro Berlusconi, che commissaria la Puglia di Fitto praticamente. Gino Paoli nei guai per 2 milioni portati in Svizzera, e a Catania c'è stato l'addio ai funerali alla piccola Nicola. Europa 24 notte. E siamo nello spazio europeo, dalle vene artificiali modellate sulle spugne marine a un meccanismo per impedire la deforestazione illegale a un semplice esame del sangue per diagnosticare il tumore al seno. Sono queste alcune delle idee pionieristiche finanziate dalla Commissione europea attraverso 59 borse di studio erogate dal Consiglio europeo della ricerca. I beneficiari ricevono 150.000 euro per trasformare le loro invenzioni in prodotti commerciabili sul mercato. Tra i vincitori c'è un'italiana, Valeria Nicolosi, di 37 anni, di Catania, docente di chimica al Trinity College di Dublino, e sentiamo qual è la sua invenzione al microfono di Alessandra Schepisi. Questa borsa di studio in realtà sono 150.000 euro da destinare ad un progetto di ricerca che è molto applicato, lo sviluppo di un'idea, di un particolare tipo di ricerca che è in realtà uno sviluppo sul mercato nel giro di qualche anno. Ecco. Quello di cui io mi occupo è la ricerca di nanomateriali, che sono poi materiali più flessibili, più sottili al mondo, ecco. Materiali come il grafene, ma non solo il grafene, quindi sono materiali che sono spessi soltanto un atomo e che quando assumono questa caratteristica di questo spessore talmente piccolo, assumono delle proprietà talmente diverse che i campi applicativi diventano insomma abbastanza allargati. Ci può fare qualche esempio di campo applicativo? Sì, in realtà le faccio l'esempio del campo applicativo che, insomma, di cui si parla in questa borsa di studio. Stiamo utilizzando il grafene ed altri materiali così ultrasottili per la produzione di batterie flessibili, trasparenti, ultraleggere, quindi per l'immagazzinamento di energia in un modo alquanto innovativo. Ecco, quello che noi facciamo è stampare delle batterie su dei substrati flessibili e trasparenti, così come utilizzo una inkjet printer, una stampante inkjet che è un po' leggermente più sofisticata di quelle che si hanno in ufficio, ecco. Quindi quello che facciamo è partire da questi materiali ultrasottili, farne degli inchiostri così veri e propri, e poi stampare questi inchiostri in modo tale da creare queste batterie con delle funzionalità abbastanza particolari, ecco. Ecco, queste devono ancora essere immesse ovviamente, certo, nel mercato. Certo. E quali potrebbero essere i tempi? In realtà quello che fa l'European Research Council in questo caso è finanziare della ricerca. La ricerca è stata sviluppata all'interno di un progetto sempre finanziato dalla Comunità Europea, un progetto su 5 anni di 1,5 milioni di euro. Ecco. L'IRC dà questa opportunità che, se nell'ambito di questo progetto molto più grande si sviluppano delle idee a livello un po' più concreto, come in questo caso noi abbiamo già il prototipo, allora danno questa ulteriore borsa di studio che è 150.000 euro per un anno, proprio per focalizzarci sulla commercializzazione di questo materiale sviluppato. Quindi in realtà l'investimento è stato molto più elevato negli anni passati ed ancora il progetto è in corso, però siamo arrivati alla grande vittoria di avere nelle nostre mani finalmente un prototipo, adesso, col quale adesso possiamo un po' guardare avanti alla fase applicativa. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Torniamo adesso sulla vicenda della piccola Nicole, la neonata che è morta in Sicilia la scorsa settimana, vi ricordate, dopo essere stata rifiutata da 4 ospedali. Oggi ci sono stati funerali. Il parto nella clinica privata nella casa di cura di Gibino, dove era stata partorita, sembrava che il parto fosse andato regolarmente, poi la bambina ha accusato dei problemi respiratori. Allora il pediatra, evidentemente in quella casa di cura non erano in grado di superare questa emergenza, questo pediatra, Antonio Di Pasquale, ha fatto la prima telefonata al 118 per lanciare l'allarme. Secondo le intercettazioni avrebbe risposto questo operatore 81, un infermiere che dicono, raccontano così, dalla voce assonnata, pronto a chiamare l'unità intensiva con un atteggiamento di routine, accontentandosi dei continui "non c'è posto, siamo occupati", senza sottolineare la delicatezza e l'emergenza di questo caso, e poi inciampando in vari numeri, confondendo vari numeri, quelli di Ragusa, di Catania, scambiando la richiesta di un'incubatrice con quella invece di un'ambulanza, perdendo insomma tempo prezioso. Altri equivoci, anche quando pensava questo operatore che fosse stato risolto il caso e aveva detto a Ragusa "lasciate perdere, abbiamo risolto tutto", insomma, diciamo una vicenda che il presidente della commissione sanità dell'assemblea regionale della Sicilia, Pippo Di Giacomo, ha definito addirittura vomitevole. Ne voglio parlare con Isabella Bartoli, buonasera dottoressa. Buonasera. Che è coordinatrice del 118 per le province di Catania, Ragusa e Siracusa, proprio in quella zona insomma è avvenuta questo rimpallo di ospedali, di richieste eccetera. Secondo lei com'è possibile che sia andata in questo modo, anche con questo operatore, secondo le intercettazioni, che avrebbe agito così, assonnato, svogliato, senza capire quanto fosse delicata la situazione? Guardi, io devo dire che lei ha raccontato, per come giustamente lei gli è stato raccontato, per come viene interpretata diciamo la vicenda, ma in realtà le posso dire che l'operatore del 118 non era assolutamente assonnato, che l'operatore del 118 ha fatto esattamente quello che il medico gli ha chiesto, che l'operatore normalmente quando c'è un medico dall'altra parte, quindi un medico che ha davanti la situazione, non fa altro che eseguire quello che gli viene richiesto. Se il medico avesse richiesto altro, come tantissime volte succede anche dalle case di cura, che per legge hanno la loro ambulanza, hanno il loro personale, noi andiamo a soccorrerli, il medico ha fatto una richiesta specifica, l'operatore, le posso assicurare che non era assonnato, ha parlato anche dell'onorevole Di Giacomo, che ha fatto una dichiarazione dicendo che la dichiarazione sottolineava che la registrazione era sconcertante. Bene, era sconcertante sì, però le posso assicurare che bisogna sentirla per capire cosa voleva dire l'onorevole Di Giacomo, perché poi l'ho letto io su un giornale, non ha detto assolutamente che era l'operatore assonnato o quant'altro, ma era ben altra l'interpretazione. Io non mi posso permettere di entrare in merito, perché c'è una in questo momento ci sono gli inquirenti e quindi è giusto che loro fanno il loro lavoro, e che nessuno si può permettere di fare illazioni o dire chissà cosa. Le dico soltanto che sicuramente è stato fatto quello che è stato chiesto, e nient'altro, con professionalità, con serietà, è stato chiesto a tutti i presidi ospedalieri, esattamente in ordine di vicinanza, proprio per cercare di agevolare la situazione. Peraltro ormai è anche noto che il pediatra aveva già chiamato ad altri altri prima di noi ad altri pronto soccorsi. Quindi mi chiedo come, se secondo scienza e coscienza si trovava in difficoltà, non ha preso il piccolino, la piccolina, la piccola Nicole, non l'ha messa immediatamente nella loro ambulanza attrezzata e portata nel pronto soccorso più vicino. Guardi che se c'è un problema di che può capitare a tutti, di non, come dire, di una serietà tale, di non essere in grado di stabilizzare il paziente o di avere esigenza di un presidio ospedaliero, la cosa più importante da fare è non perdere tempo, non ci si perde in telefonate o in ricerche di posti letto, si va immediatamente, dato che si è medici, dato che si ha l'attrezzatura adeguata, nel pronto soccorso più vicino per stabilizzare la bambina, e dopo il posto ci si pensa, a destra o a sinistra, da qualunque parte, ma la cosa più importante è salvare la bambina. Quindi si ci precipita nel pronto soccorso più vicino. Chiarissima Isabella Bartoli, la ringrazio, e poi appunto bisognerà aspettare ancora per vedere in che direzione vanno le inchieste. Grazie.